later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è stagnante come in un ufficio dell'era bresnieviana, K e Drago hanno esaurito gli argomenti. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, oggi sono in vena di confidenze. Sì, sì, vorrei raccontarti una storia. Quale storia? La storia di le mie origini. Nenne. Io sono nato in Svizzera, tanti e tanti anni fa. Come tutti i bambini svizzeri, ho giocato a curling e a hockey fino alla sesta elementare. Le mie prime ardimentose avventure le ho vissute lungo le ripide discese del Tütlisbergspass, dove mi divertivo con i miei amici a fare spericolate gare di boba 2. Erano i tempi della decima. Mentre ero in undicesima, un volume dell'enciclopedia britannica mi piombò in testa, stordendomi e rendendomi irreparabilmente primo di classe. Da quel momento ho esercitato il mio status di primo di classe senza vergogna e con molto profitto. E infatti eccomi qui in una fabbrica di polli con Drago. Ma scusa, K, ma cosa sono la decima, l'undicesima? Ero in decima, in undicesima. Come cosa sono? Sono le classi della scuola svizzera, l'école suisse. Si arriva alla tredicesima, c'è la matura. Ma cioè, se ti chiedono che classe fai e tu hai 18 anni, tu rispondi faccio la dodicesima. No, forse la tredicesima. La tredicesima? Sì, ma che problema c'è? No, ho capito, fai la dodicesima, ma di quale scuola? Liceo, istituto tecnico? Soprattutto se fai l'università, cosa fai? La quattordicesima, la quindicesima? Com'è? È un concetto olistico, è tutto collegato. Comunque, Drago, la scuola svizzera è diversa, adesso ti spiego. Innanzitutto le lezioni sono in tedesco. In tedesco? Tutto in tedesco. Come? Anche per chi parla in italiano, anche la matematica è in tedesco. No, infatti, come? Sì, infatti il teorema di Pitagora non lo recito a memoria in italiano come faresti tu, no? Com'è? No, K, lascia stare la geografia, anzi la geometria, perché Drago, mi ricordo. Il teorema di Pitagora. Ma no, più dai, o meno. Astraiti e immagina di essere ancora a scuola quando studiavi geometria. Sai che non mi piace fare questo tipo di astrazione. Il teorema di Pitagora. No, il teorema di Pitagora. Il rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über die Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate über den beiden Katheten. Vabbè, dai, ti dico di lasciar perdere. Poi in tedesco. Allora, proprio... dai, quello di Euclide. Ma come quello di Euclide? Gegeben sei eine gerade G und ein Punkt P. No, questo è peggio ancora. Euclide proprio quello di ipotenusa. Andiamo sul facile. Dai, parlami della teoria dei quanti. Questa sì, dai. Quanti centimetri ci vanno per fare un metro? E quanti metri per fare un chilometro? Quanti? Che stronza! Hard to fill in. It is later than you think. Astraiti, dice Cappadrago, astraiti. Prova tu ad astrarti in questo lager. Lui dice, chiudi gli occhi, ti immagini di essere a Las Vegas con Frank Sinatra che canta ed è come se fossi davvero lì. Sì, Las Vegas, Frank Sinatra, Poi riapri gli occhi e sei nel lager. Bello, Figa, ma io non ci credo a queste cose qui. Se fosse così facile chiudere gli occhi, immaginerei di essere Manuel Goshing degli Asher Temple mentre registra Swingungen a Berlino nel 72. Pensa che roba. Sarai Manuel Goshing e avrai tutte le ragazze che aveva Manuel Goshing. Non era Jim Morrison, ma insomma, anche Manuel Goshing aveva il suo bel giro di figa in Germania Ovest, Swingungen. Certo che è proprio un bel disco, Swingungen. Mi ricordo negli anni 70, quando a novembre di pomeriggio, che magari pioveva, e veniva buio alle 5, e io mettevo su Swingungen e lo ascoltavo nella mia cameretta. Chiudevo gli occhi e mi astraevo, allora sì, e facevo dei viaggi bellissimi in un mondo cosmico e mi svegliavo ogni giorno con i capelli più lunghi, perché ascoltare Swingungen fa crescere i capelli, altro che trapianti, Swingungen. La fabbrica di polli! Io il più bello, il più elegante, il più sinuoso essere volante. Io il più bianco, lucente intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante ridotto così come cadavere spiaggiato, così come animale contagioso ammalato. Ero un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte è il mio canto, e questo stanotte è il mio canto. In the middle of nowhere. La fabbrica di polli. Ma cosa hai, Drago? C'ho freddo. Drago, sei tutto ricoperto di brina. Cosa hai fatto? Indovina un po'. Non lo so. Scusa, ma vedi uno ricoperto di brina? Secondo te cos'è successo, Che è cominciata la grande glaciazione, non te ne sei accorto? Forse. No, mi hanno chiuso per sbaglio nella cella frigorifera, ecco tutto. E chi è quel pazzo che ti ha aperto? No, sono riuscito ad aprire io usando un cigno congelato come leva. Cos'è un cigno congelato? Ma sai che non hai idea di quanto vada bene un cigno congelato per scassinare una porta blindata. Lo consiglio a tutti i ladri. A tutti i ladri in ascolto. Ma cosa stai dicendo, Drago? Sì, consiglio di procurarsi un cigno congelato, di prenderlo per le zampe e di usare la testa come grimaldello. La lunghezza del collo fa sì che la leva sia favorevolissima. Sì, tu anche da lontano riesci. Ma i ladri dove lo trovano sto cigno congelato? Ah, beh, è vero. Vabbè, però possono sempre prenderlo vivo e metterlo nel congelatore, no? Vivo. Direttamente. Sì, vivo, per un po' sbattacchia, ma dopo un po' ti assicuro che è meglio di un piede di porco. Il collo di cigno. Il collo di cigno. Che cosa succederà adesso? E se il cigno si congela con il collo piegato, come potrà essere utilizzato per scassinare una porta blindata? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo glaciale allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bar Lumen.